prepara le borse, ti porto sul corso. Ho una cabrio, salta in macchina senza aprire la porta. Gira per ego sul mio polso, non lascio che il tempo rimetta le cose a posto. Ho corso nell'ottica di un rimborso, questo però mi porta lontano da ciò che sono. Prendi drink e andiamo lontano, fammi un discorso. Guarda in alto un aeroplano, devo scappare dal fondo stanza. Non pago che il tipo qua lo conosco. Pisco sour, whisky amaro, dormiamo al pronto soccorso. Ricordo, fumavo mattone per tutto il giorno. Mi fermavano per strada pensando che avessi il mondo. Baby, ti voglio una mela come Battisti. Sei bella che ascolti canzoni tristi. Staremo a vedere quanto resisti. Ci vedi mai sopra uno skyline a scrivere insieme un'altra puntata? Ci pensi mai a dove vai? Stasera ne abbiamo fatta di strada. Anche tra i fulmini e le cose inutili ne abbiamo fatta di strada. Ci credi mai verso uno skyline a vivere insieme un'altra puntata? Non ho mai capito contro chi combattere. A volte vorrei solo farmi da parte. Piango su una fiamma che non si è mai spenta, che non si è mai spenta. Passi le giornate a dirmi di combattere. Prendo una cartolina per poi andarmene. Sta vita è droga e non sa starne senza. Non sa starne senza. Fermo su dettagli di cui non ti accorgi. Quei piccoli dubbi tra i problemi enormi. Chiudo gli occhi, giro il mondo senza sforzi. In una villa scrivo di una vita senza soldi. E può capitare che mi confonda. Parliamo al buio, provi a farmi luce usando la torcia. Amo le macchine, guardarle, ma nessuna mi compra. Mi sento uno skydiver se l'immaginazione vola. Ci vedi mai sopra uno skyline a scrivere insieme un'altra puntata? Ci pensi mai a dove vai? Stasera ne abbiamo fatta di strada. Anche tra i fulmini e le cose inutili ne abbiamo fatta di strada. Ci credi mai verso uno skyline a vivere insieme un'altra puntata? Dopo quelle notti bruciate, tutte le lattine svuotate, nei ricordi foto sfocate, eravamo noi e le strade. Dopo quelle notti bruciate, tutte le lattine svuotate, nei ricordi foto sfocate, eravamo noi e le strade. Ci vedi mai sopra uno skyline a scrivere insieme un'altra puntata? Ci pensi mai a dove vai? Stasera ne abbiamo fatta di strada. Anche tra i fulmini e le cose inutili ne abbiamo fatta di strada. Ci credi mai verso uno skyline a vivere insieme un'altra puntata?